Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci nel nostro appuntamento consueto con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e anche oggi saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, oggi altro argomento tra le mille cose che l'associazione segue, che l'Adico segue, questa volta parliamo ancora di una vacanza in qualche modo rovinata, anche se si è svolta quasi regolarmente. Raccontiamo un po' i fatti. Sì Francesco, ci ritroviamo a parlare un po' di vacanze perché comunque come associazione noi, il nostro sportello Vacanza Informata, diciamo che riceve costantemente segnalazioni, quindi abbiamo sempre delle storie che potremmo raccontare su disavventure per i vacanzieri. Sappiamo che ce ne sono tante, strutture che non sono come quelle che ci si aspettava, problemi con i voli, eccetera, eccetera. Ecco, in questa storia noi uniamo le due cose, uniamo il problema con il volo, un problema con il volo e tanti problemi con le strutture. Le nostre due socie hanno vissuto quindi una doppia esperienza negativa, sia per quanto riguarda il viaggio, sia per quanto riguarda la sistemazione. Allora, diciamolo subito, stiamo parlando di due amiche veneziane, dovevano fare un bel viaggio, tra parentesi, prenotato tramite un'agenzia che si occupa proprio di viaggi storici, cioè viaggi in luoghi appunto dove si può fare una vacanza totalmente dedicata alla cultura, diciamo così. In questo caso le due socie dovevano andare in Medio Oriente, una delle tappe principali era Gerusalemme. La loro partenza era prevista per il 29 ottobre da Fiumicino, con una bella comitiva dovevano partire tutti all'interno di questo tour organizzato. E invece è successo questo, Francesco, che quando sono trovati all'imbarco dell'aereo a Fiumicino, sostanzialmente la comitiva, secondo quanto ha potuto dire gli operatori di Alitalia, era troppo numerosa e due persone non ci stavano. Ecco, andare a pensare a una cosa del genere, cioè che una comitiva che aveva prenotato appunto tramite un tour operator si ritrovi in overbooking, chiaramente lascia un po' perplessi. Nell'ambito di questa situazione le due amiche veneziane hanno deciso di sacrificarsi loro, sono rimaste a terra e hanno dovuto prendere l'aereo dopo, che era 10 ore più tardi, quindi capiamo che è stato un bel disservizio, anche perché insomma le due socie sono dovute rimanere comunque nella zona dell'aeroporto per poi partire con 10 ore di ritardo e con tutto lo stress accumulato. Insomma, possiamo capire come siano arrivate poi in Medio Oriente, con che situazione di stress. Qua, come ci hanno comunicato, non è andata molto meglio, perché gli organizzatori non sono stati molto attenti alle loro esigenze, sono state poi, tutta la comitiva in realtà è stata messa in una struttura che non rispettava gli standard promessi e insomma ci sono state anche varie situazioni negative per quanto riguarda la permanenza in loco nelle strutture ricettive. Le due socie si sono rivolte a noi abbiamo appunto uno sportello apposito, lo abbiamo detto più volte, che si occupa di vacanze, che lavora molto soprattutto d'estate ma anche d'inverno, e siamo andati a chiedere sostanzialmente due cose: ad Alitalia il rimborso per l'overbooking e all'agenzia un risarcimento per vacanza rovinata. Noi sappiamo che da un po' di anni è prevista questa possibilità, quindi la possibilità di chiedere un risarcimento al di là dei danni realmente subiti, anche per un danno morale, appunto per lo stress subito in una vacanza. Quindi si sa, se una persona va in vacanza vuole andare per rilassarsi, se torna più stressata di prima chiaramente ha subito un danno, e adesso è prevista questa possibilità di chiedere il danno da vacanza rovinata. Allo stato attuale, in tempo record, abbiamo ottenuto il rimborso di Alitalia, 400 euro a testa, e che riteniamo un ottimo risultato, e ripetiamo, è stata data una risposta immediata, siamo soddisfattissimi di questo. Ora ovviamente attendiamo anche una risposta per quanto concerne la vacanza rovinata invece in loco, quindi per quanto concerne le strutture ricettive che non rispettavano gli standard. Ecco, una curiosità, l'abbiamo detto molte volte, queste due iscritte all'Adico hanno presentato anche magari del materiale fotografico che dimostrava la non coerenza tra quello promesso e quello che effettivamente hanno trovato, quindi l'albergo che non era confacente. Hai fatto benissimo a dirlo, Francesco, ormai diciamo che c'è feeling tra di noi, nel senso che è molto importante ricordare alle persone che poi vogliono soprattutto contestare una vacanza che non ha soddisfatto gli standard promessi, anche i soldi spesi. Per far questo il materiale fotografico diventa ovviamente fondamentale. E le due socie l'hanno portato, è successo in altre occasioni che qualcuno abbia contestato delle strutture senza materiale fotografico, siamo noi stessi che sconsigliamo poi di procedere, a meno che non si abbiano proprio delle testimonianze di altro tipo, di procedere con contestazioni di questo tipo senza del materiale documentale, quindi soprattutto fotografico. Quindi giustamente, come dici te, se ci rendiamo conto, se siamo delusi dalla struttura, soprattutto in cui veniamo posizionati, collocati, o da altre cose che non ci convincono, facciamo tante foto, adesso abbiamo la possibilità di farle col cellulare, tutto serve per riuscire ad avere un rimborso, anzi serve tantissimo per poter avere un rimborso, soprattutto per la vacanza rovinata. Esatto, e poi ovviamente non portare avanti la causa da soli, ma avvalersi degli avvocati, delle associazioni a difesa del consumatore può essere importante per ottenere poi i risultati che giustamente uno dovrebbe aspettarsi. Beh, grazie quindi all'Adico. Io ricordo che c'è il vostro sito, che è sempre utile da andare a vedere e visitare, www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Gianluca, ci risentiamo martedì prossimo. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.